binario 10, binario 10, ascoltate qua, cambio passo, vendo, compro, scambio. Attenzione, binario, binario 10, cambio, cambio. C'è qualcuno? E avanti. Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Chi è avanti? Avanti, chi è? Avanti, chi è? Ah, c'è un'ora, bbbb, non mentre. Hola. Capito? E così riprendi. E ma intendi che non curavano il guardiano? Sicurezza, che non guardava, che non curavano il roba dalle bancarelle, già cioè dagli stand. Ah, lì sapevi lavorare. Ma io lo faccio da già diverso tempo. Ho lavorato anche con un'altra ditta, ho fatto l'assistenza a Monti, ho fatto il candeliere. Ho capito, ho capito. Ho fatto varie cose, ho fatto io. E quindi paghi su sei stracco. Ho fatto due notti, ho fatto. E te credo allora. Ho fatto ieri ho fatto mezzanotte, ieri ho fatto mezzanotte 8, dalle 8 oggi ho fatto dalle 2 al mattino fino alle 11. Ho capito. Che ho fatto? Bisogna travagliare, cosa fai? Ecco. Gareth. Io sono io, però c'è qualcuno che non sta uscendo, un segnale fortissimo, 9.50 arriva qua. Ah boh! Ci ho visto, tra te parlando, ho visto questa portante. Ciao comunque Antonio, ciao Natalino, non so se ci sia qualche donato, comunque chiunque ci sia si senta salutato. Da questa parte è Roberto Quadrato. Ok, vediamo se questo segnale forte c'ha problemi di uscita. Vediamo avanti che non usciva di radio. Buongiorno. Tu eri Antonio? Era aspetta, evidentemente è nato in ditti, ripeto adesso. Di non usarlo, domani lo controllo, vediamo di farlo funzionare. Sto usando il microfono normale adesso. E stai usando 9.60, lo superi pure, cioè non se ne ha paura, però la modulazione, Antonio, no, non è che mi piace molto. Comunque sei in compagnia mia di Natalino e di Antonio. Ti ripasso a Natalino e poi Antonio farà, a Natalino farà girare Antonio. Che la fa? Devo scendere in deposito, col bambino. Che cappa. Ciao Robè, ben entrato, buonasera, ciao Antonello, da. Riprendi Antu. Poi bisogna che un giorno salga in deposito all'attacco il bambinetto piccolino, se ficcheggia. E se è arrivato anche tu forte, sei quasi 9.30, cosa vuoi di più? Non ho molti watt. Ma adesso ho aumentato un po'. Hola, è andato. Ok, avanti, c'è un altro, avanti che vuole entrare. C'è tanta gente che ascolta, però che entra a pochi. Allora, vediamo un pochettino, Natalino, avanti a te e poi fare girare per Antonella. Che cappa, purtroppo c'è gente che sono tutti assenteisti, non vogliono entrare, boh. Non lo so, Robè. Io ho dato due bip perché non c'era nessuno, è entrato Antonio, poi sei entrato tu e poi Antonello. Avanti Antonello. Ancora sta uscendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene? Peggio che prima, un bel ronzio e poi sotto la bubù. Ronzio da 70, aspetta un attimo, c'ho il materia maletta. E stai attento, non mi faccia nulla, perché a momenti si sente il ronzio. Poi il rumore di fondo, ma che cos'è il K poi? Perché fa tutto questo rumore? Ma c'è roba vicino. C'è la ventola magari. C'è la ventola, sente la ventola. Sì, alla faccia della ventola, c'è la ventola attaccata al microfono. Ah, è giù la ventola, devo... Allora, Antonio a te. Kappa, dai. Questi giorni voglio portare l'amplificatore in deposito, a farlo andare con l'87 un pochettino. Come fermo, mi si attaccò quello che arrivò oltre 9.50. Ma Antonio è a fianco a me, c'ha l'antenna grande poi, è quello che arriva così forte lui. Sicuramente anche tu arrivi fortissimo, però non lo so se ce la fa a passare Antonello, perché lui è in discesa e le onde scendono più veloci, no, naturalmente è un coso. Dimmi, stai parlando che stai facendo sorveglianza Antonello? Cappa. Ma sorveglianza a che cosa? Sicurezza, devo stare attento che sì, cioè che non rubino niente alle, agli stand, capito? Ma di che cosa stai parlando? Stand di che cosa? Ma carelli, mi dirà che bancata. Ma di tanta gente o solo di una bancarella? No, un bel banca, un bel 13 ne devo, uno devo guardare una notte. Ma sono tu una vicino all'altra, sono. Beh, non sai come sono disposte in questo castello. Certo. Non sai, robe. Io già l'ho fatta diverse volte queste assistenze qua. Veramente devi stare attento che non rubino niente, capito? Che va tutto liscio di notte. Perché pagano a me e pagano. Ma quelle di Piazza Castello, quindi sono tutte vicino, pensavo volevo le barcarelle quelle di San Giuseppe. No, a me mi hanno dato quella zona, mi hanno dato lì. Devo controllare lì. Via, stamattina me ne sono andato alle 11, ho fatto alle 2 di notte e mi sono andato alle 11. Ma scusami un po', capisco la notte, ma alle 11 ci deve essere già il proprietario della bancarella. No, è quello del turno, perché alcuni non ci sono. Cioè alle 11 in pieno cavalcata non ci sono. No, vabbè, loro ti danno le disposizioni perché devi fare quegli orari lì e basta, capito? Quel poco che va. Loro ti danno quelle disposizioni e devo rispettare gli orari. Perché sennò ti bagano. Scappa, vai a tagliare. Mi scappa. Ehi, vabbè. Che ce ne fosse di quel lavoro, Antu? Deve essere una persona fidata, una persona che non ti deve fare i cavoli tuoi, cioè non è gustino. Cioè non è che lo possono dare a tutti, c'è una responsabilità perché se gli rubano qualche cosa ti ripaghi i numeri, cose. Se fanno qualche cagata, capito? Ma da solo sei, Antu? Ieri notte sì, due notti ero da solo. Cazzo, se vengono tipo ragazzini, uno a parte, uno all'altra, come fai a gestirli? La farebbe da culo. Vabbè, ma quando appiccicarne uno, per perseguitarne uno passa l'altro, ma cosa c'è da rubare, di roba il valore? C'è tutta la roba di stand, cioè. Se non è parte di chi si gode, come vedono la guardia, perché poi io chiamo la polizia subito, devo fare il sciame, capito? Ci mettono subito, no, non ne ho problemi, ma non è mai successo. Tu passeggi, stai sempre passeggiando la notte vicino alle bancarelle. Dentro gli stand, cioè, sì, io tutta la notte devo controllare che non rubino niente, che va tutto liscio. E non è mai successo niente che qualcuno furbetto si avvicinasse? L'ho visto, ma giù tu avviassi. Cappa. Vediamo Antonello se si è fermato. Beh, si riuscirà bene adesso, dai. Cappa. Ma sei con che microfono sei, Antonello? Sta amplificando un bel, sento tutto il rumore che c'è intorno. Microfono Salenta CM40. Attaccato al K. Abbiamo fatto il cavetto e l'ho attaccato al K. Non so che c'era anche il microfono amplificato l'M95, quello della ZG. E perché si fa sempre un bel di rumore di vento e tutto quello che c'è intorno, stai amplificando un bel quella roba lì. E a uno il coso. Guarda, adesso la maletta l'amplificazione del microfono, guarda un po'. Io sento un po' da burro, tu chiedi anche a loro, altre data li confermi. A burro tu solo si intende. Adesso dove c'è uno microfono, guarda un po', dovrebbe essere di meno. A meno che non ce l'hai orientato verso questo evento, le metti l'ho girato dall'altra parte, ma li diminuisce. Non lasciate senza faccia anche lo pompogno, ah. Non vi metto la portante. Lì sul lato, l'hai sentito. Ah, buona giornata a me, tanto me fa sentire la tua potenza. No, stanno da mangiare, c'è fame, Roberti. Ho chiuso anche, erano 80 metri, ho fatto del troppo, 80, 40. Adesso ho chiuso tutto e basta così. 10 per oggi. Ma che devo poco fare qua, sapete? No, a mangiare non me ne dire, guarda, me ne sto scendendo dal naso. Ieri notte non ne parliamo e oggi a pranzo, peggio ancora, sono completamente sazio, forse sino a domani. Una cosa esagerata, cosa c'era da mangiare, va bene. Non si dice. Natalia, date il mic. Sì, dai, un attimo che sto facendo una cosa qui. Se no ne capubi. Dai, riprendo io, vi saluto, c'è Antonello, Antonio, Roberto, Natale e così via. Buon fine serata a tutti, se coincide a più tardi, altrimenti alle prossimine, vai Anto. Ciao, ci risentiamo alle prossimine. Ciao, là, ci sentiamo alle prossime, buona cena, buon tutto. Avanti, Antonio. Vabbè, e allora come va tu? Tutto a posto? Tutto a posto, sto facendo il, come si chiama, manutentore. Stavo chiamando, sì. No, io non risolto, so. Sto facendo manutentore lui, capito? E quindi sono tutto il giorno impegnato, ecco perché non so prendere una baracchina. L'unica cosa che ci ho preso è il PMR che mi serve per lavoro. Siamo in due, ho preso poi le parole del risotto e quindi ci chiamiamo tramite il PMR quando, perché è grande, capito, il terreno, è molto grande. Sono un po' gamba, è già andato pianto, ha giudizio qualche cosa, ha giudizio. Ah tu? Quello che ho mandato su Facebook, c'è la piscina, c'è di tutto, c'è. Dimmi Robè. Ti ha già visto in televisione, intervistato a te e la tua compagna da Palupoli. A me? Come a te? Scherzando. Cazzo, sto scherzando. Ah, t'ha giudizio. Che per la casa, state cercando casa. Ma sto scherzando, non siamo noi, no. Vabbè, dai, lasciamo fare, non dico niente. Allora. Se non ne vogliamo parlare, non ne parliamo. Ah, scherzi, io ho fatto solo un commento e basta. Non siamo noi. Perché noi non ce l'abbiamo la casa? Antu, se vuoi che ne parliamo me lo dici, se no non dico niente, se mai è una cosa che non vuoi dire. Ma non siamo noi, no. Anto, già ne parliamo a voce, non ne parliamo a fare. Ah, si imbriaco cosa? Io ho visto il video, ho visto e... che ho fatto il commento. Ehi, quello sto dicendo, tu e tua moglie è venuta questa persona, l'ho visto su internet e l'avete fatto, le ha chiesto, lui era un po' arrabbiato, dice non è giusto che non si facciano certe cose, poi se non ne vogliamo parlare altro dimmelo di quello discorso. No, parla, non parla, no, ho fatto solo il commento io e basta. Niente, niente di che non c'è, che anche a noi ci hanno rotto le palle, non ci volevano dare la casa. Tutto lì è. È quello che sto dicendo, io ti ho visto, per quello poi se non ne vogliamo parlare lasciamo perché cambiamo argomento. No, parlane le cose, anzi, cazzo, è una cosa anche giusta. È vero, noi prima di avere questa casa siamo i fattici di gabbo. Cioè, veramente lasciamo perdere, perché cazzo sono veramente dei pezzi di merda. C'è il padrone di casa a casa, ma dai a casa, cioè, vabbè, io posso capire che la gente è randaggia, perché ne abbiamo anche tutti. Io, a me quando arriva l'uno, viene qua, si prende i soldi, non gli dico manco mezza parola, credimi, non gli do manco mezza parola a me, si piglia di là e basta, perché vogliono i monibogli di Gozi e quello e quell'altro, cioè, a me mi, te lo posso dire, il mio padrone di casa è Vanessa. Del gusto di da Edo già viene con me sull'uno si bigliare di là, io non ho mai avuto problemi. Ah già ci credo, l'onestà tua non è dubito. Allora forse era un video vecchio questo, tanto, che ha detto che se c'è bambini non ti fanno entrare, se c'è un cane invece sì. No, invece è proprio un cane che non vuole. Ah così, allora ho capito male io. Ma tu sei sempre nella stessa casa o hai cambiato casa dall'ultima volta che ci siamo sentiti? Qua sono, dove sia. No, anche, diceva anche i bambini, ma anche animali non è buono vedermi. Lo sto dicendo. Ma andare a rompere le balle ai bambini, cioè no, non va bene. Io non ha, cioè, a me il padrone di casa è una persona seria, non è. non è facile di essere cacciati, capito? Via, ho fatto anche una serata da poco, sono persone brave, sono di cuore, e male burbagato è la verità, e non è che ho pagato bene, ho fatto una serata musicale. Meglio così, vuol dire che sei comportato bene e ti sei comportato bene anche tu. Vediamo, se è stato Natalino, se no riprende Antonello, io ancora qualche minuto poi devo staccare. Amo, ma è pronto al collo? Adesso scendo a mangiare. Capito, ho fatto una bella serata, mi ho portato luci, ho portato cose, sono divertiti, mi ho fatto divertire forte, ma è pagato, la verità non devo dire niente. Vabbè, vuol dire che è giusto, se la vuoi è giusto che ti paghi, poi se lo fai per riconoscenza è un altro discorso, vuol dire che hai meritato, vuol dire quello che ti dicanto, giusto così. Vediamo Antonello se c'è ancora. Sono qua, non ti preoccupare. Io invece ho avuto un paio di casa che era uno stronzo, la verità. 20 appartamenti e erano più balle, quindi figurati tu. Quindi, ma meno male, già sono a casa mia adesso. Gli agenti storici non vogliono prendere più niente, perché la maggior parte sono tutti quanti gente strana, questi padroni di casa. Ma tu sei a casa tua, Antone? Sì, questa è casa mia, non me la tocca nessuno. Quindi figurati tu, sto bene qua, a Puglia, ce n'è. Mi basta, certamente qua, l'unica cosa è il condominio che è l'auto dei coglioni qua, perché non puoi utilizzare lo stereo, non puoi utilizzare altre cose, il cane mi rompono le balle ogni tanto, capito? Perché si mette a bagliare quando c'è gente nelle scale, e quindi, capito, ho trovato le balle per quello. Ho tanto il cane qui, ce l'avevo tutti, e questi condominio dove sono io, ce ne sono almeno una quindicina di cani. Ah, il cane se lo tiene tranquillo, non è di quei cani che stanno abbagliando ogni 5 minuti, l'appartamento si può tollerare, ma se sono quelli che cadono in esempio, tipo quello che c'avevo qua vicino, cazzo, ogni sicuro, tutta la dire, oh, giorno, notte, questo cane, però non ho mai detto niente, non mi sono messo a dire niente. Vediamo Antonio se c'è ancora o se devo andare a mangiare, mi sa che Antonio è andato a mangiare, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare per salutarlo un attimino, perché anch'io mi devo spostare. Vediamo chi vuole entrare. Ci dovrebbe essere Natalino, non so cosa doveva fare, forse va a prendere la medicina, buh. Ecco, c'ero ieri vicino a casa di Natalino, c'è un amico che aveva dei problemi di segnale TV, e quindi per salire sopra il tetto deve cercare il padrone di casa, la padrone di casa poi passare all'amministratore del condominio, non è mai, non si vuole disturbato, e quindi ci sono dei giorni che è vero, e ci sono dei giorni che non vengono accidenti. Ieri gli ho messo anche un amplificatore di linea, ma non ha giocato bene di pannuta, perché vuol dire che l'antenna è proprio messa male, ma col cavo di fare l'antenna lì. Sì, addirittura, cacchio, se non ricevi i canali da casa tua, cacchio, è il colmo, ce l'hai di fronte a Montero, senza antenna e niente lo ricevo io. No, sto dicendo al centro storico io, capito, di fronte a casa di Natalino. Qui è la casa è nuova, solo che evidentemente l'antenna è vecchia, e devo salire a cambiarla, solo che adesso ve lo dico che di avvisare il padrone di casa, poi se mi fa salire bene, se no non c'è altro metterlo fuori dalla finestra, non lo può piazzare perché lì come si chiama, in quella via lì non ci puoi mettere nulla fuori per l'estetica, capite, quindi mi ha fatto salire sopra il tetto. Cioè, è stato tutto un po' critico, le antenne le devi orientare verso l'alto, perché sennò ti fa riflessioni, con questi digitali impazzisce il decoder e fai non più tenuta in certe zone, così già lo so, purtroppo come a Platamona in certe posizioni non riesce a prendere niente, è inutile che metti amplificatori e cose, non ne va in nulla perché è peggio, riabbassa la situazione. Ok, allora ti devo lasciare, che devo fare cosa? Ciao, grazie della compagnia, anche se non è stata lunghissima, saluto anche qua eventuali amici su canale 10 in ascolto, correte la parte mia, ciao ciao. E io, ciao Robby, ci sentiamo correttivo con tutto, buonasera, alle prossime. Yes, avanti. Ebbene, dottore, buonasera. Bella. Buongiorno, usilo. Beh, sentito. Buongiorno, buonasera. Va bene, buongiorno, buonasera, sempre la giornata, a partire sempre la giornata, dai, ok, perfetto. Allora, hai cambiato... Cambiato casa, ok, perfetto, va bene, c'è da storia così, va bene, se non ho capito male, ok, va bene, dai, e come sta arrivando lì, se hai cambiato zona, ancora dammi un controllino, a te il cambio, sempre con la parrocchia, sempre lavorare qua, ok, con diretta, a te il cambio, parrocchia. Ehi, 6-9-10, qua comunque non ho cambiato casa, e è un giorno che mi hanno andato dal centro storico, sono venuto qui a abitare e... di fronte al salvatorio, già lo sai dove abito. Arrivi bene qua, 9.10, 9.05. Qua ti ascolto benissimo. Chi è l'amico? L'amico di Usilo, Uranio. Ah, sì, sì, salutalo. Dai, va a mangiare, là. Lo salito un attimino. C'era uno che ha detto chi è l'amico, Uranio, capo dalla collinetta di Usilo, ok. Operatore Francesco, a te il cambio, Antonio, fai girare, dai, se vuole fare l'amico che ha detto chi è. Capo, cioè, sentiamo che io vado a mangiare, ciao ciao. Allora. E Antonio è bombolo, Uranio, stanno a mangiare adesso. Ah, ok, yeah, perfetto. Va bene, allora, Tore, ci sentiamo, dai. Buon proseguimento di serata, buon preparativo di cena, allora, e sentiamo, dai, ok? Io chiudo lo stesso, dai. Ciao, ciao, buon fine domenica e ci sentiamo, dai. E niente. Ehi, ok, ci sentiamo, ciao, anche a te. Buonanotte, buon tutto. E ciao, ciao. Ciao, ciao. Andati via siete. Bubu. Bubu. Tutti coricati devono essere qui. Senti. E beh, non c'è più nessuno. E beh. Si chiù. C'è qualcuno qua? Attenzione Sassari, ebbene, non c'è nessuno oggi.